Miti e verità dello sport di Dario Ricci. Ben ritrovati a Olimpia, la città dello sport, nuovo orario, ogni domenica alle 20:30, ve lo ricordo, e tante nuove pagine della storia dello sport da sfogliare insieme, per di più nell'anno olimpico che porta a Rio 2016. Ben più vicina la scadenza per presentare le candidature ai giochi del 2024, quelli per cui è in corsa Roma. Tra le rivali della capitale c'è Los Angeles, che in corsa ha sostituito Boston come rappresentante americana. Sfida suggestiva quella californiana che punta al tris, visto che Los Angeles ha ospitato i giochi già in due occasioni, che ripercorriamo insieme oggi con l'aiuto di altri illustri cittadini di Olimpia. E allora andiamo in California, all'alba di quel 30 luglio 1932, giorno d'inizio a Los Angeles della decima edizione dei Giochi Olimpici dell'era moderna. Mimi, you funny little goon for nothing, Mimi. Am I the guy? Mimi. Ha voglia di tornare a sorridere l'America che sta lentamente superando la Grande Depressione. Los Angeles, del resto, è pronta ad ospitare i giochi fin dal 1928, ma la crisi economica ne ha appunto rallentato le ambizioni olimpiche. Non che dalle nostre parti si stia granché meglio, col regime fascista che celebra il decennale della marcia su Roma. Dulce, dulce, chi non saprà morire, il giuramento chi mai rinnegherà. Per fortuna c'è anche chi riesce comunque a far sorridere con un'allegra canzonetta. È in questa atmosfera che il 10 luglio del 1932 il Memorial Coliseum di Los Angeles, stadio da 100.000 posti dedicato ai caduti della Prima Guerra Mondiale, ospita la cerimonia inaugurale dei giochi. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is Barry Coleman, along with Dan Ashmore, my co-host for the 2 weeks coverage of the 10th Summer Olympic Games here at the Los Angeles Olympic Stadium. Gare concentrate in 2 settimane, uso del photo finish, villaggio olimpico ancora precluso alle donne che alloggiano in un albergo a sé stante, le feste notturne della vicina Hollywood che sedurranno molti atleti ben più del desiderio di vincere una medaglia. Questi sono i primi giochi olimpici losangelini, aperti ufficialmente dal vicepresidente americano Curtis. In the name of the President of the United States, I proclaim open the Olympic Games of Los Angeles, celebrating the 10th Olympiad of the modern era. A leggere il giuramento lo schermidore statunitense George Calnan. We swear that we will take part in the Olympic Games. Destino triste quello di Calnan, ufficiale di marina che perirà un anno dopo nell'incendio del dirigibile Akron nei cieli del New Jersey. Come amara sarà la fine di un altro schermidore, l'ungherese Attila Petschauer, 2 ori e un argento olimpico in carriera, che morirà in un campo di concentramento nazista durante il secondo conflitto mondiale. L'Italia fascista porta ai giochi una spedizione di prim'ordine che chiude addirittura al secondo posto nel medagliere alle spalle degli Stati Uniti con 12 ori e altrettanti argenti e bronzi. Il trionfo più splendente è forse quello del milanese Luigi Beccali che con una rimonta irresistibile sul rettilineo finale conquista l'oro sui 1500 metri per poi mandare in un videomessaggio il suo, non troppo convinto in verità, saluto al Duce. The first 3 men in the 1500 meter final. The Cali of Italy, Corns of Great Britain second, and Edwards of Canada third. Sono contento di aver vinto in questo stadio al colmo di gente straniera per l'Italia. Conclusa la sua straordinaria carriera, Beccali si trasferirà proprio negli Stati Uniti a commerciare vino. Ma l'atleta simbolo dei giochi del 1932 è un altro ungherese, Oliver Halassi, un personaggio incredibile che ricordiamo insieme al nostro primo ospite, Claudio Arrigoni, direttore di Gazzetta TV e grande esperto dello sport paralimpico. Ben ritrovato a Olimpia, la città dello sport, Claudio. Eccoci, è sempre un piacere essere con voi a Radio 24. Beh, Claudio, davvero incredibile la storia di Oliver Halassi. Due ori e un argento olimpici nella pallanuoto, dopo aver vinto titoli nazionali ed europei nel nuoto. Il tutto con una sola gamba, vero? Sì, era bambino e venne travolto da un tram, davvero uno dei primi tram a Budapest, e questo gli causò l'amputazione della gamba sinistra. Malgrado questo fu davvero un grande atleta, fu anche una gran persona. Lui poi si era sposato, ha avuto due figli. Quando morì, e le circostanze della morte non furono mai ben chiarite, poteva essere una rapina, secondo alcune cronache, secondo altre era un soldato sovietico, si era appena dopo la guerra, si era nel 1946, un soldato sovietico sceso da un taxi, lo colpì chissà per quale motivo, e la moglie doveva partorire il terzo figlio. Malgrado appunto quell'incidente al quale hai accennato, diventò veramente un grandissimo nel nuoto e nella pallanuoto. Tre Olimpiadi, ragazzi, stiamo parlando di uno che ha partecipato a tre Olimpiadi. Ma com'è possibile, Claudio, arrivare a tali risultati con un handicap tanto grave? Abbiamo visto nel nuoto delle prestazioni spettacolari. Chi solo può osservare una paralimpiade vede delle persone con disabilità talmente gravi che dice no, questo non solo non può nuotare, non può neanche stare in acqua, persone che non amputati a tutti e quattro gli arti, persone che vincono contro altri che hanno gli arti che magari non hanno le braccia. L'acqua annulla molto spesso le differenze. Questo in particolare possiamo anche dirlo nella pallanuoto, perché poi la pallanuoto è uno sport molto di forza, molto di resistenza, anche di potenza. Nell'acqua le differenze si annullano, questo devo dire è straordinario. Attenzione, non si annullano del tutto. Oliver era un grandissimo campione. Che eredità ha lasciato Oliver Halassi nello sport mondiale? Ma ha lasciato un'eredità straordinaria, che è quella di mostrare che la disabilità nello sport si può superare. Dopo di lui ne sono arrivati tanti altri, alcuni poco conosciuti, però io voglio ricordare in primo luogo Paola Fantato, perché è la nostra atleta che prima al mondo in assoluto ha partecipato a Olimpiadi e Paralimpiadi nello stesso anno, era il 1996 ad Atlanta, lei in carrozzina poliomielitica a tirare con l'arco. Ecco, questa è l'eredità di Oliver, la possibilità per altri, di altri disabili, di poter dire ce la posso fare. Poi tutto naturalmente sublimato e portato agli occhi del mondo da quell'Oscar Pistorius che purtroppo adesso sta vivendo una vicenda personale difficilissima. Claudio Arrigoni, grazie per essere stato ospite di Olimpia, la città dello sport. È sempre un piacere e naturalmente viva lo sport di Olimpia. Ora qualche istante di pausa e poi vi aspetto ancora qui a Olimpia. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com. Vi presento alle porte dell'Europa, Radio 24, lungo le rotte della migrazione. Subotiza, Edirne, Chop, Kos e Lampedusa. Sono le porte dell'Europa, luoghi di una frontiera su cui preme l'ondata migratoria di chi fugge da guerre e disperazione. Nel mese di settembre, Radio 24, con i suoi inviati, vi porterà ai confini di un continente che si sente sotto assedio. Ogni venerdì, nei GR, in effetto giorno e in effetto notte. Il sabato mattina, nel reportage europeo. Olimpia, miti e verità dello sport. Relax, cantavano i Frankie Goes to Hollywood a quei tempi. Ma in quel 1984 il mondo era tutt'altro che rilassato. Basti pensare che proprio i giochi olimpici di Los Angeles di quell'anno divennero teatro del controboicottaggio sovietico, con molti paesi dell'est che non parteciparono come rappresaglia al boicottaggio americano di Mosca 1980, allora motivato con l'invasione dell'Afghanistan da parte dell'armata rossa. Ancora pochi anni e la guerra fredda sarebbe stata solo un ricordo, con il crollo del muro di Berlino. Al suo secondo appuntamento olimpico dopo quello del 32, Los Angeles rappresentò un punto di svolta nella storia dei giochi, con un'edizione all'insegna dello show business, a testimoniare il predominio mondiale del capitalismo americano incentivato dal presidente Reagan rispetto al comunismo sovietico. Per l'Italia sono olimpiadi ricche di soddisfazioni, basti pensare agli ori nell'atletica di Cova sui 10.000, della Dorio nei 1500 metri e di Andrei nel lancio del peso, ma Los Angeles 84 è soprattutto l'Olimpiade di due fenomeni americani che segneranno per sempre la storia dello sport: Carl Lewis e Michael Jordan. Set. This time they go. Away well was Donovan Reed on the near side, Stewart, and Carl Lewis is showing his pace, isn't ready. It's Carl Lewis and Grady. Carl Lewis on the near side, and on the far side, Ron Brown, and America may have got 1, 2, 3. Lewis, Grady, and Ron Brown in the photograph. The time 9.99. I 100 metri che avete appena sentito, poi 200, poi il salto in lungo, infine la staffetta 4x100. 4 ori come prima di lui solo il leggendario Jesse Owens a Berlino nel 1936 era riuscito a fare. Così Carl Lewis, 23enne nato a Birmingham, Alabama, entra nella leggenda dei giochi, apice di una carriera in cui il figlio del vento conquisterà 9 ori olimpici e 8 mondiali. Ospite di Olimpia oggi un azzurro che sfidò, insieme al compianto Pietro Mennea, Lewis proprio a Los Angeles 84. Stefano Tilli, benvenuto. Buonasera, buonasera a te, buonasera agli ascoltatori. Allora Stefano, concedimi una battuta. Bella sfortuna trovarsi nella corsia a fianco un avversario come Carl Lewis. Direi che sì, dal punto di vista sportivo è il massimo della fortuna, perché posso dire di aver corso fianco a fianco con questo grandissimo campione. Si era già messo in luce nell'83, un anno prima a Helsinki, ma lì esplose proprio con 4 ori. Io ricordo di averlo affrontato sia nella semifinale del 100 metri sia in quella dei 200 metri e poi di aver corso una frazione della 4x100 che ci vide quarti dietro proprio di loro, di Carl Lewis, che con quella frazione vinse il suo quarto oro. Quindi una fortuna dal punto di vista sportivo aversi dato questo grande campione. C'è un aneddoto particolare che ti lega a Lewis a quei giorni di Los Angeles 84? Una mezz'ora prima di entrare in pista c'è la camera di chiamata dove ci si veste, dove ci viene dato il numero, il numero della corsia, eccetera. Poi da lì fino alla pista cammini con la tua serie, con la tua batteria fino a dietro i blocchi. E io ricordo di avergli camminato al fianco, anche dietro, e di aver visto sto bacino almeno un palmo più alto del mio da terra e di dire proprio: ma come faccio io a arrivare davanti a questo qua? E infatti era piuttosto difficile, per fortuna per tutti quanti era molto difficile. Tra l'altro il figlio del vento fu il primo vero showman dell'atletica mondiale. Sì, sicuramente sì, non so, noi eravamo abituati a Pietro Mennea, un grandissimo campione ma piuttosto schivo. Invece Carl Lewis fece anche questo, diventando personaggio mediatico, si fece preparare delle divise apposta, si presentava sempre impeccabile con i suoi occhiali, con la sua squadra, il Santa Monica Track Club, sempre al di fuori degli schemi, con le navette private, con il manager, l'allenatore, il dottore, il fisioterapista, un team proprio, e quindi diede il via veramente all'atletica moderna. Che eredità ha lasciato? Beh, direi di aver aperto e acceso un faro sull'atletica sicuramente, e di questo ne beneficia ancora oggi tutto il movimento atletico mondiale. L'atletica ha fatto un salto di qualità in avanti enorme sotto la guida del compianto Primo Nebbiolo, e molto si deve anche alla popolarità che ha dato Carl Lewis a questo sport, le sue sfide con Ben Johnson e i suoi 4 ori consecutivi nel salto in lungo a 4 edizioni diverse di Giochi Olimpici. Quindi direi che all'atletica gli deve un grande grazie. Stefano Tilli, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia. Un saluto a Olimpia e ai suoi ascoltatori. Ciao, ciao. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Carl Lewis, certo, ma Los Angeles 84 regalò al mondo anche l'immenso talento del signore dei canestri, Michael Jordan. Jordan ducks off the jump ball. He's unbelievable when he gets it going. Patrick Ewing, watched by Wilcher. Jordan hangs in midair. Well, the key is when he catches that ball, he takes that one quick long step. I believe I can fly. Fu lui, fresco di titolo NCAA conquistato a North Carolina, a trascinare a suon di canestri gli Stati Uniti all'oro nel basket. Iniziava così la storia dell'uomo che ha cambiato la pallacanestro, conquistando 6 titoli NBA con i Chicago Bulls. Ne parliamo con Sandro Gamba, leggenda del basket azzurro e coach dell'Italia che a quei giochi arrivò quinta. Coach Gamba, benvenuto a Olimpia. Un piacere sempre. Coach, che giocatore era quel giovane Jordan, allora appena 21enne, ma già fenomenale? Io lo conosco molto bene perché siamo amici con Jordan. Io l'ho seguito quando era a North Carolina all'università e segnò l'ultimo canestro del campionato NCAA al secondo anno d'università. Poi ha lasciato l'università e è andato professionista, perciò era uno dei più giovani in circolazione nella nazionale degli Stati Uniti. E lì triturarono, mi ricordo, la Spagna di 30 punti in finale e Jordan fece una 20 punti, così immarcabile come al solito. Quali erano le sue caratteristiche? Intanto lui era un atleta formidabile, aveva le dimensioni regolari, non aveva le gambe troppo lunghe, non aveva il busto corto. Lui correva come un centista, saltava come un saltatore in alto da finale olimpica, aveva le mani d'oro e i fondamentali cestistici erano di una grande scuola, appunto la North Carolina. Poteva giocare in tutti i ruoli, giocava alla piccola, alla potente, playmaker, giocava da tutte le parti. Era difficile marcarlo perché lui sul primo passo aveva la partenza del centista. Ah, a proposito dei velocisti, coach, chi fu alla fine il simbolo di quei giochi? Michael Jordan o Carl Lewis? Io direi Carl Lewis, perché Carl Lewis è stato un atleta dell'epoca proprio, l'unico che ha vinto anche lui come Owens a Berlino nel 36, 4 medaglie d'oro, 100, 200, staffetta e salto in lungo. Perciò andiamo piano a fare i paragoni, perché adesso va bene che c'è Bolt, però Bolt lo voglio vedere saltare in lungo. Sandro Gamba, grazie per essere stato ospite di Olimpia, la città dello sport. È un piacere, quando avete voglia possiamo chiacchierare. Per l'appuntamento di oggi con Olimpia è tutto, un grazie a Roberta Frisani in regia. Vi ricordo che potete scriverci alla mail olimpia@radio24.it e soprattutto scaricare il podcast di Olimpia dal nostro sito web radio24.it. L'appuntamento con l'Olimpia è per domenica prossima, sempre alle 20:30. Buona serata da Dario Ricci.